C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Riguardo agli alimenti per animali, è stata detta una grande cazzata, perché i supermercati non hanno tutti i prodotti. Io ho un gatto che ha problemi urinari e devo comprare un mangime specifico che non si trova nei supermercati. Quindi gli alimentari per animali devono essere aperti come gli alimentari per gli umani. Allora, buonasera dalle grotte dove sto io, non si dice nulla, questa è la grotta dove sto facendo la quarantena, che non esco. Vorrei salutare a tutti gli italiani. E salve tutto il mondo! Forza Italia! Intanto, sui balconi di un quartiere napoletano. Urludone da questa via moderna, vai! Non piangere questo amore, appena non ci pensa, un casino fino ai bucchini senza cuore, ci fai male. Quarantena napoletana. Guardate sto povero uomo, la pelle che può fare, poi una femmina che te la fa libertà. Napoli e Africa. Non va se coppa una zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, alliscino sto bebè. Yes. Quarantena napoletana. Ma guarda, l'unica droga mia è la figa, Grugiani. Vai a fare il culo del tuo fratello! Segreteria del sindaco? Buongiorno! Buongiorno! Sa mica se la bocciofila è aperta oggi pomeriggio? Non credo sia aperta, di solito quando c'è allerta non aprono, però deve chiamare aprono, direttamente no? Loro. Amica il numero? Non credo, aspetti che verifico. Che dove andiamo oggi se è chiuso, Criste? A casa. E venga a casa. A casa ci sta lei con mia moglie, scusi. No, io sto... Mi scusi, ma... No. Non ce l'ho il numero, mi dispiace. Vabbè, ci passo, grazie. D'accordo, grazie. Niente, salve. Grazie. C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Frocia Lenzo. Eccoci, Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione, grazie. Trasmettiamo ancora vivi dal bunker di via Monterosa, bunker dove ormai, anzi direi la ridotta più che il bunker, ormai ci sono pochissime persone, di solito ci sono 20-30 persone a quest'ora. Ormai l'azienda ha ridotto i ranghi per paura del contagio. Adesso faccio lo stronzo. Adesso, uno di questi giorni ho la febbre al 38 e mi ricoverano al sacco, sicuro. David Parenzi in collegamento dalla casa sua, Roma. Buonasera. Eccoci qui, buonasera. Abbiamo appena sentito i numeri da parte della Protezione Civile. Sì, in Italia 17.660 casi, vabbè, 1.266 morti, 250 più di ieri. Bene, e quindi, bene. Per chi diceva che era una banale influenza, per chi diceva che era una normale influenza, questi sono i numeri. Terribili. In collegamento da Padova, la persona forse più odiata del momento, anche più amata, perché c'è una piccola parte, una piccola parte di persone che in realtà lo approvano. Alberto Gottardo, applausi. Dagli studi di Radio Caffè ho trovato pochissima gente in giro per Padova, eravamo in due sull'autobus che mi ha condotto agli studi radiofonici. Ah, hai preso l'autobus addirittura? Certo. Hai preso certo. L'autobus, come dire, assolutamente indifferente alla possibilità di contagio? Ma no, allora, indifferente sarei un incosciente se fossi indifferente. Con i guanti o senza guanti? Guanti o senza guanti? Senza guanti, mi lavo le mani abbastanza spesso senza guanti. Giusto. Perché questo... dovrei mettermi i guanti? Alcuni dicono. Cioè, come non si mettono i guanti quelli che lavorano, non so, fanno l'asporto rifiuti, lavorano normalmente per portare tutte le merci nei supermercati? Sì. E perché cazzo dovrei mettermi i guanti? Ci sono molti operai incazzati, molti operai incazzati perché dicono che non sono protetti, e ne sentiremo molti questa sera. Chi può lavorare da casa e chi deve andare in fabbrica? Molti autotrasportatori imbufaliti. No, infatti devo dire subito una cosa, perché ieri ho esagerato, ho detto che è un morto di fama, in realtà poi coi morti che ci sono è un'espressione sbagliata. Ma tu dici l'espressione più corretta, con i morti, sì, con i morti non si può dire morto di fama. Ti devi scusare con i morti. L'unica espressione che si può usare, che ci ho pensato a lungo, è il dilettante allo sbaraglio. No, come la corrida di Corrado. Certo, la corrida di Corrado. No, ma davvero. Sì, perché io la radio la faccio per scherzo, come passatempo la faccio la radio. Sono le 18:40. Su quello che hai detto, dilettante. Infatti, non ho i tempi, quello che hai detto. Non sono professionista. Continua a dirmi degli insulti. Allora ragazzi, però il coglione del giorno è un altro. Ragazzi, non è Gottardo. No, il coglione del giorno. Eccolo, fa ridere questa cosa, ma continua ad insultarmi gratuitamente. Questa fa ridere, ovvio. Cioè, allora, il coglione del giorno. Hai detto una coglionata e quindi il coglione del giorno. Silenzio, sì, il coglione del giorno è un inglese però. Non è né un padovano né un romano né un Così è vero, Boris Johnson. No, Boris Johnson fra poco te lo faccio sentire, in realtà non ha detto affatto una coglionata, perché è una strategia ben precisa che sembra che la Gran Bretagna voglia tenere. Nella tradizione della serietà dei britannici. Allora, un conduttore televisivo inglese, che è intervistato da una radio, lui si chiama Christian Jensen, un medico, tra l'altro. Un cretino ha detto totale. Che il coronavirus, questo è un coglione, una testa di cazzo, un imbecille, uno che... Ma io magari, adesso io non me lo auguro per nessuno, perché il coronavirus non fa una piccola, un piccolo approfondimento lì in Gran Bretagna, dove già ha cominciato a tracciare i suoi passi, ma io figuriamoci se voglio che si espanda in Gran Bretagna. Però questo qua meriterebbe, questo coglione meriterebbe il coronavirus. Un coronavirus lieve, naturalmente, non un coronavirus grave. Un coronavirus da spavento, però, che lo possa un po' spaventare. Si chiama Jensen, una scusa per gli italiani per non fare niente. Una scusa degli italiani per prolungare la loro siesta. Pregiudizi. Ma come? Perché vuol dire pregiudizi? No, questa non è questione di pregiudizi, è proprio una coglionata, non è? No, è uno stupido. Come tutti i pregiudizi, è una stupidità. Allora, quello che dico potrebbe essere un po' razzista e mi toccherà scusarmi, lo dice pure. Ma non pensate che il coronavirus sia un po' una scusa? Gli italiani sappiamo come sono cosa, imbecille, testa di cazzo. Per loro ogni scusa è buona per chiudere tutto, interrompere il lavoro e fare una lunga siesta. Capisci? Questo coglione? Questo imbecille? Perché il coronavirus non fa... ragazzi, non ne posso più. Ho bisogno di porro. Datemi porro contro la Lagarde. Si può dire, non ci occupiamo di solito di queste cose, non ci occupiamo di solito di cose che riguardano le banche, l'economia, eccetera, eccetera. Ma si può dire senza essere banali, senza essere superficiali, senza metterci in grandi discorsi, che questa signora che comanda la Banca Centrale Europea è una deficiente? Si può dire o no? Si può dire che andrebbe presa a pedate nel culo? Si dovrebbe dimettere e dovrebbe andare a Bergamo a vedere come cazzo si sta in un ospedale? A vedere, a vedere, non a prendere la malattia. Assolutamente. A pedate nel culo, andrebbe presa a pedate nel culo. Ma no, infatti è intervenuta subito Ursula von der Leyen. Ma chi se ne frega di tutto il resto? Intanto ha fatto una cazzata, punto e basta, Sì, sicuramente, questo è sicuro. Beh, l'altra vera grande cosa è questa deficiente, all'attacco, presuntuosa della Lagarde. Deficiente e presuntuosa, avete sentito bene? L'unica sua caratteristica è quella di sapere indossare i completi di Chanel che paghiamo noi contribuenti europei per dire solo cazzate. Ieri, durante la sua prima conferenza stampa, ha voluto fare la figa, questa deficiente, e i mercati sono crollati come non è mai successo nella storia d'Italia, del mondo, in tutto il mondo, perché ha detto che il compito della Banca Centrale Europea non è quella di ridurre gli spread. questo grande casino che è l'Italia, ci si mette anche una governance dell'economia mondiale affidata a questo asse franco-tedesco, con un pagliaccio Lagarde che è lì col suo completino di Chanel per spiegarci come deve funzionare la Banca Centrale Europea, e i tedeschi che, come spesso avviene, purtroppo non guardando più lontano del loro naso, rischiano di far implodere l'Europa. Meluzzi, dopo un attimo di riconciliazione con Parenzo, credo che questa cosa qui tornerà di nuovo a farli sfidare, riaprire la zecca, mettere in circolo la lira. No, un delirio. Per evitare che tutto vada buttato nella spazzatura, che qualcuno arrivi per comprarsi l'Italia per nulla, peggio di quanto non è accaduto alla Grecia, c'è una sola soluzione, ed è quella di restituire all'Italia la sovranità monetaria. Dico alcune cose semplici e schematiche: abrogare il decreto Monti che bloccava la trasformazione delle lire residue in euro, restituire alla Banca d'Italia e alla Repubblica Italiana la sovranità rispetto alla possibilità di battere moneta, riaprire la zecca e rimettere immediatamente in circolo alcune migliaia di miliardi di vecchie lire, pompandole nel sistema industriale, nel sistema produttivo e nelle tasche degli italiani. L'economista Meluzzi. Potrebbe avere un effetto positivo, questa cosa, ecco, che dice Meluzzi. Cioè aumenterebbe la vendita di carriole per portare poi le lire. Per comprare un chilo di pane dovresti portare due carriole di nuove lire. Questo è vero. Io credo che gli italiani accetterebbero queste lire come seconda moneta, a costo forzoso, figurati, come furono le AM lire dopo la Seconda Guerra Mondiale o gli assegnati della rivoluzione di Napoleone. Se non rimetteremo una moneta nazionale in circolo, magari parallelamente ad un euro residuo, anche se nessuno la vorrà, servirà per gli scambi. Ragazzi, però il mio idolo di oggi è un altro, il mio idolo di oggi è una prostituta, come al solito, perché le prostitute sono quelle poi alla fine che si adattano a tutto, no? Abbiamo parlato nei giorni scorsi del tramonto delle prostitute in questo periodo, perché naturalmente, essendo difficoltosi, anzi impossibili, i rapporti sessuali, se non tra persone che vivono... Ci sarà un'esplosione post quarantena, perché può darsi. Che stare a casa con la però moglie qualcuno, o con la qualcuno si ingegna, ci qualcuno, sarà un'esplosione. Certo, non c'è dubbio, qualcuno però si sta ingegnando. Una tale che si chiama Lori a Roma, indovina che cosa ha fatto? Ha messo il controllo della temperatura all'ingresso di casa sua con il termoscanner. L'ho proprio scritto: controllo la temperatura con il termoscanner. Sull'annuncio. Cioè lei dice: venite, vi controllo. A parte che non si potrebbe fare, perché uno non potrebbe andare di solito. Comunque questa è la numero uno, fermi tutti. Capito Mantova, sto andando a lavorare, siamo la resistenza, e una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ho capito che è il momento sbagliato. Allora, sono un metalmeccanico e volevo lasciare un messaggio per tutti i miei colleghi metalmeccanici d'Italia. Ricordatevi quando si dovrà andare a votare. Ricordatevi di quale governo ci ha condannati a un'eventuale morte, ci ha condannati a essere contagiati e a contagiare le nostre famiglie ogni volta che ritorniamo a casa. Denuncio il fatto che lavoriamo senza mascherine, senza dispositivi di sicurezza, affinché il contagio, l'eventuale contagio, possa essere minimo. È una vergogna. Vi cancelleremo con un tratto di penna. Signor Conte, l'avvocato del popolo, avvocato di sto cazzo. La rabbia rabbia dei metalmeccanici. Però ti faccio sentire Boris Johnson, il premier inglese, che dice: le famiglie perderanno, devono abituarsi a perdere i propri cari prima del tempo. Però molto crudo, Johnson. È piaciuto molto a Gottardo, eh? Ma certo, come Churchill, lacrime e sangue. Non dice puttanate. È un po' diverso, diciamo. Quella era una guerra. È la verità. Questa la è puoi la verità, ha detto in scienza. Faccia, questa, ha detto ecco in la faccia strozzata. Al suo popolo la verità. Questa è vero, questa è vero. Questa la puoi evitare con la scienza, con le misure che stanno prendendo. Beh, tutti capito, i paesi d'Europa. Ma mica Johnson è un pazzo, però. Ha detto non di sono. Dai, no, non so, non so se è un da pazzo, ma sarà a differenza di una restare, guerra. No? No, non dico da arrestare, a differenza di una guerra. Perché non sono. I must level with you, level with the British public. More families. Many more families are going to lose loved ones before their time. Allora, poi c'è il Papa, ragazzi. C'è il Papa, il signor Papa. Cioè, lui ha una responsabilità della salute dei suoi. Dei suoi concittadini. E lei ci dice moriranno in tanti. E dovrà prendere delle misure per contrastarle, vabbè, no? Quelle le metteranno in le morti. Quelli le metteranno in pratica. E invece non lo fa. Ma no, che ne perché sai? Dice che la vita continua. No, io l'ho sentito tutto il discorso, non quel pezzo. Guardate quello che scrive. Cioè lui dice: noi non cambieremo le nostre abitudini. È esattamente questo il punto. È una scelta politica. Secondo me è una scelta folle, ovviamente. Allora, il Papa, non sempre le misure drastiche sono. A parte che prima aveva detto: non vorrei che questa epidemia ci faccia dimenticare i fratelli siriani. Ora, caro Papa, ti posso dire una cosa. Sì, sì, ce li siamo dimenticati. Anche quelli che li avevano in testa, i fratelli siriani. Anche quei pochi, giustamente, che avevano in testa la sorte dei fratelli siriani, i radicali, non so chi altro, avessero in testa ogni giorno la sorte dei fratelli siriani, ti posso assicurare che in questo frangente ce la siamo dimenticata la sorte dei fratelli siriani, che perché giustamente pensiamo ai cazzi nostri, a sopravvivere, se proprio possiamo, caro Papa, se proprio ce lo consenti di pensare alla nostra sopravvivenza, ho capito, ma pure lui sta qua, non è che sta ma lui pensa all'umanità, al mondo, tutto il mondo cattolico, che i miliardi di cattolici del mondo, non sempre le misure drastiche sono buone, questa è una cosa un po' gottardiana. Le misure drastiche non sempre sono buone, per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale affinché provvedano misure che non lascino da solo il santo popolo fedele di Dio. In realtà pare che la cosa sia stata detta per spingere alla riapertura delle chiese di Roma, che pare che siano riaperte adesso, questa cosa folle per cui le chiese sono aperte. È stato anche questo, allora è stato il Papa, Sgarbi e Boris Johnson. Però posso dirti una cosa, io non riesco a capire perché le chiese, non so, credo che sia territorio Vaticano, non lo so adesso tecnicamente. Alcune sono del territorio Vaticano. Allora, alcune sono le chiese di devono Vaticano, chiudere, le chiese vanno chiuse, chiaro, se tutti quanti abbiamo chiuso tutto, anche le chiese vanno chiuse. Andrebbero chiuse anche le chiese con i militari davanti. Tanto le la gente non... anche sono ma, state la chiuse. Ma le moschee, giustamente, vedi che qualche volta gli islamici. Questa è la realtà. Sono state chiuse le moschee. Su questo interviene anche la signora, le due signore Marchi, incredibile. Cioè il ritorno di Vanna Marchi, come no? Vanna Marchi and figlia. Per vendere il sale. Che se la prendono dicendo prega. Senti. Chiese, sì. Pensa, ma sì. Prega a casa tua! Ma prega a casa prega tua! Prega a casa, coglione! Sì. Prega per la strada, prega in macchina! Prega a voce bassa, sì. In silenzio nella testa! Sì. Ma perché? Perché? Prega nel silenzio, con quella voce sgraziata, prega a voce bassa. Sì. Ma perché le Marchi and Nobile? Contro chi vuole andare a pregare. Per me le chiese vanno chiuse. Io le vorrei vedere in televisione. Io vorrei vederle in televisione in questi giorni. Non sono in televisione. Che cosa avrebbero fatto loro? Cosa avrebbero venduto in questi giorni loro col coronavirus? Cosa avrebbero fatto? Criminali. Quelle sono due criminali. Non far vedere che sei tanto bravino perché vai a messa la domenica, quando il lunedì fai il porco in giro dappertutto a fare i bocchini dappertutto. Vergognatevi, maledetti. Io a vedere queste scene. Ma io non capisco a chi si riferiscono le signore Marchi, a quelli che vogliono la riapertura delle chiese. Non capisco con chi ce l'hanno, secondo voi? Grazioso non lo capisco signore. Io è una cosa pazzesca. Massimiliano da Cesena, che credo sia il metalmeccanico incazzato prima. Massimiliano, dimmi. Esatto, esatto. Ciao Crux, ciao Parenzo, ciao Gottardo. Dimmi, che succede là? Parli con un condannato a morte, Crux. Ma non credo, condannato a morte, dai. Penso... amico mio, purtroppo sì. Da, scusami, avete le distanze di sicurezza lì in fabbrica? Dove lavori tu? Allora, Crux, io lavoro in un posto con più di 500 operai. 500 operai? Sì, assolutamente sì. Lavoriamo in un'azienda metalmeccanica. Ma dove? Non ci sono le dove? Mascherine nella provincia di Forlì Cesena. Forlì Cesena, vabbè, allora non ci sono mascherine? Incazzate. Le mascherine non ce n'è abbastanza, incazzate. Crux, sarebbe facile dire incazzatevi. Noi ci sentiamo come dei condannati a morte. No, il problema, io volevo dire una cosa a sto governo di merda schifoso. Al signor avvocato del popolo. Sì, lo so, lei già ha detto, però. No, ma io capisco che sei incazzato. Ma io immagino, adesso non voglio fare l'avvocato dell'avvocato. Problema, ma credo che non sia facile organizzare tutto. E poi dovrebbero essere i datori di lavoro a farlo. Oggi no? Lo fanno. Sì, Crux, però ti spiego una cosa: io non me la prendo col datore di lavoro, è questo che si deve capire. Noi non siamo persone che non vogliamo andare a lavorare. Noi siamo persone che vogliamo andare a lavorare, ma anche quelli che sicurezza. Sì, ma giustamente. Io non posso pensare, ci mancherebbe, io ho uno scrupolo, dico, cioè io non posso tornare a casa. E se sento che esistono anche gli asintomatici, io non potrei tornare a casa sapendo di poter contagiare i miei figli. Io ho due figli piccoli, una moglie. No, no, ma su questo non c'è dubbio. Ma la distanza tra di voi in fabbrica qual è? Non sempre, Crux, non è facile mantenere sempre la distanza. Adesso è stata chiusa la mensa, ci hanno chiuso gli spogliatoi, ma per il resto l'ambiente metalmeccanico non è in sé per sé un ambiente pulito. No, quindi vabbè, quello è già difficile. Non, le distanze non è solo la distanza, ma io mi sento praticamente un condannato a morte che deve lavorare per pagare il reddito di cittadinanza di chi in questo momento è a casa sul divano, non fa un cazzo. Sì, questo lo capisco, questo lo capisco, non c'è dubbio. Il reddito di cittadinanza, la Cina in 20 giorni è arrivata quasi a zero contagi. Qui in Italia ci abbiamo messo un mese per cercare di capire se sospendere un cazzo di campionato. Ma che di calcio giorni, due mesi però, ci ha messo. Io capisco l'incazzatura di Massimiliano, caro, perché hanno chiuso tutto su. Sì, ha ragione, ma la Cina ci ha messo due mesi, però, è uno di quelli che è sul fronte, lavora fianco a fianco con delle persone e dice che non bastano le mascherine, non so quali tipo di protezione abbia. È ovvio che per me gli operai devono continuare a lavorare, perché altrimenti. Ma anche gli autisti degli autobus, quelli dei taxi, oggi ne ho visti a Roma quando sono uscito. Taxi sono incazzatissimi, non ci sono più taxi, sono arrabbiati, e quelli dei no, ma anche gli autisti degli autobus, quelli sono spesso a contatto con le persone. One Express, il pallet espresso. Vi presenta la zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco la mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. Che tutto questo allarmismo che stanno dando, e la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. E la gente già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Io mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Perenzo. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. Ciao ragazzi. Ma vi spiego un pochino i comuni interessati dai, dalle misure urgenti di contenimento. Quali sono? Nella regione Lombardia ci abbiamo Bertonico, Catapustolenco, Castello Grundo. Queste sono le zone che, dove c'è il focolaio. Sono parole demoniache. Buongiorno. Ma io oggi mi viene da ridere perché siamo proprio un mondo di matti. Io faccio il camionista e noi siamo in giro come se niente fosse, a destra, a sinistra, su e giù. Anzi, quando vai a scaricare nelle ditte, è vero, la mascherina, i guanti, quello ce l'abbiamo in dotazione ed è giustissimo. Peccato che però non ti fanno entrare né per andare in bagno. Non dico prendere il caffè, che per l'amor di Dio, ma uno ha un bisogno? Non si può. E poi vorrei vedere se uno di noi scivola dal rimorchio, si cade per terra, si fa male, che ha bisogno di aiuto di qualcuno. Voglio vedere chi viene a tirarci su. Altro che siamo tutti fermi, le balle siamo tutti fermi. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che il coglione del giorno, l'inglese che ha detto che per gli italiani questa epidemia è come una siesta, questo dottor Jessen, dottore, questo fa anche il dottore, questo qua, capisci? È la star, cioè, del programma di malattie imbarazzanti. Esatto, bravo, è la star del programma TV inglese Malattie imbarazzanti, che peraltro è abbastanza attinente col personaggio. È imbarazzante lui, dico di più. Un imbecille, ragazzi. Sì, non è un programma anche semi-satirico alla fine. Sì, ma è un dottore, è un medico. È un programma semi-satirico. No, ma quello l'ha detto seriamente, non l'ha detto per scherzo. Cioè, chiaramente non è seriamente. È un luogo comune schifoso, come quello che spesso però si usa verso i meridionali in Italia. No, non c'è tranne ma in questo. No, ma in questo caso. Purtroppo tutto il mondo vive di stereotipi. Sì, no, ma verso quelli della Corsica in Francia, verso quelli della Corsica, la stessa cosa. I francesi fanno quelle battute. Ragazzi, allora lui ha detto potrebbe essere un pochino razzista da dire. Dunque, non è che voleva dire una cosa. Mi ha preso la rincorsa. Dovete scusarmi, non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutti e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta. Penso veramente sia solo un brutto raffreddore. E le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero, che è un po' quello che pensa anche Gottardo, se vogliamo, no? In qualche modo. Beh, insomma, intanto i dati di oggi ci dicono che i contagiati sono aumentati di 2116, ieri erano aumentati di 2651, quindi un po' di crescita con una pendenza un po' inferiore, che non dico di essere ottimista, ma io spero. Vabbè, che io spero però, che c'entra. Tutti, no, speriamo, adesso, ma, tutti speriamo, tutti speriamo che c'entra. Guarda, dopo una serie che aveva visto quando praticamente degli incrementi sui dati è una cosa. No, ma anche adesso non ci sono dati positivi, posso quando dirti. Prova per adesso non ci sono dati, sono dati imbarazzanti. Ma stanno sanificando le città, ma lo vedi o no? Benissimo, però un fatto unico nella storia non si era mai visto. Posso cercare di vedere un lato ottimista o devo dire che moriamo tutti? Ma sì, ma dire che moriamo tutti. No, ma certo. Vuoi sentirmi dire che dobbiamo tapparci tutti in casa? Hai detto stronzate dal primo giorno. Ma no, ma non è vero. Ragazzi, fermi un attimo. Non riuscite a non litigare. Io ho provato a non farvi litigare, ma non riuscite a non litigare. Uno dice che Parenzo dice che lui, che Gottardo dice stronzate. Gottardo pensa di avere ragione. Che volete che vi dica? David da Charleroi. Come si dice? Da Charleroi. Charleroi, che cos'è Charleroi? In Francia cos'è? Yeah. No, Guido, provincia di Sondrio, non lo sento. Guido, provincia di Sondrio, dai, Guido. Guido, dimmi. Niente, sei, Matteo. Ciao, sì, ciao, ci sei, dimmi, dimmi, Guido, dimmi, dimmi. Senti, niente, sono un piccolo imprenditore qui della sì. Valtellina, abbiamo una cosa l'altra. Volevo solamente fare un appunto. O perlomeno vorrei che voi prendesse carico di un... Sì, però Guido, cerca di parlare da un telefono che funziona, oppure togli via voce, l'auricolare, non so che cos'hai, perché non... Niente, viva la voce, niente. Vabbè, dimmi, dai. Sì, una diversa attività. L'unica attività che avevo aperta oggi era una tabaccheria. Dunque, tu sei tra i tabaccai aperti. Guido, mi senti o no? Matteo da Trieste, dai. Ho capito, non mi senti, non rispondi. Senti? Matteo da Trieste, senti, dai. Luciani? Sì, richiamate questo Guido. Digli che deve essere, sì, ditegli che deve essere un po' più speedy. Matteo, senti, dimmi. A parte il fatto che sotto casa mia stanno venendo a prendere qualcuno con l'ambulanza, tutti i baracchi. Vabbè, questo non è solo da te. Volevo dire che sono d'accordo con Boris Johnson e purtroppo quindi anche con Gottardo nel senso che se proprio bisogna morire, almeno moriamo romanamente. Però volevo dire un'altra cosa. Che vuol dire morire romanamente? Non ho capito. Ecco, come gli antichi romani, che non, sì, avevano, capito, che non erano certo dei cagasotto. Ma a parte questo, non era. Vuol dire morire romanamente, sia morire petto in fuori. Con coraggio. Vuol dire morire con coraggio? Uno può anche scegliere di non morire, però. Con la schiena dritta. No, ma certo che puoi scegliere. Che vuol dire morire con la schiena dritta? Però sembra che. Adesso io non lo so. Non lo so quale sarà. Che bisogno c'è se c'è la scienza? Ormai il mondo, ragazzi. Ci sono delle misure precauzionali. Questa. No, scusami, David. Però questa qua è una stronzata. Allora, il mondo chiaramente si divide in due per adesso. C'è quelli che prendono dei provvedimenti molto drastici e dei paesi che per il momento, magari, e altri paesi, forse perché e non anche hanno, gli Stati Uniti, forse perché anche non hanno Stati focolai Uniti come quelli italiani, forse perché non hanno focolai come quelli italiani. È un altro, una parte della, di un mondo. Beh, che invece nello stato dell'Ohio ci sono 100.000 contagiati. Il governatore dell'Ohio ha detto: ragazzi, no, cercheremo l'Ohio, di fare il possibile. 100.000. Non è che ha chiuso. Non tutto. Mi risulta 100.000 l'Ohio, però. Ha detto che il governatore potrebbe. Dell'Ohio. Però non dice, adesso potenzialmente ci sono. Abbiamo 100.000. Potenzialmente. Beh, scusami, Zaia diceva di 2 milioni. Scusami, Zaia in Veneto diceva di 2 milioni di contagiati entro il mese prossimo. Per cui il governatore lo ha detto. Ragazzi, il mondo si divide in due. Tra quelli che pensano, quelli che pensano che prendere provvedimenti drastici uccida l'economia, e mi sembra che sia la cosa della Gran Bretagna. Poi vediamo per forza come finirà. E poi gli altri. Matteo, quello purtroppo certo uccide l'economia. Quello purtroppo certo. Vengo subito al punto. Allora, hanno ragazzi. Chiuso i confini, l'Europa scricchiola, la Germania non sembra. Vabbè, che vabbè, allora Matteo, dimmi che... allora. No, e che tutti adesso sono qui a dosannare i cinesi perché ci hanno mandato qualche mascherina dopo che loro hanno provocato tutta questa e merda. Medici. Vero, ma hanno mica fatto apposta. Hanno rotto i coglioni, basta. Ma non hanno fatto apposta. È quello che pensa, è quello che pensa Giordano. Adesso tutti quanti a elogiare, adesso tutti a elogiare i cinesi. Tutta merda e ci contagiano da che mondo è mondo. Ma mangiano i topi vivi secondo lei? Mangiano i topi vivi, secondo lei? Io non sapevo che facessero file di merda così alte a Padova, Gottardo. Comunque, lasciami parlare. Sto dicendo che si mangiano qualsiasi merdata, poi ci contagiano e poi è certo che ci vengono a dare una mano, perché gli conviene anche a loro, no? Ma anche perché hanno un sacco di interessi. Quindi è un complotto cinese. Ma non è un complotto cinese, non dico che l'hanno fatto. Lui dice apposta. Che è sbagliato sannare adesso. Sì, però fanno cagare. Allora, fanno Matteo cagare. Dice giustamente che adesso c'è una corsa ad osannare i cinesi quando invece tutto è nato dalla cazzo. Cina. Francesco da Milano. Collaborazione tra stati, Francesco che è una da Milano. Diversa, dimmi Francesco. Dimmi. Ciao, di nuovo, ci siamo sentiti ieri. Dimmi. Allora, tornando al discorso di ieri, che c'è qualcosa che non quadra. Guarda caso, la Lagarde con quella frase che tutti dite che è stupida, veramente pensiamo che quella è stupida. Quella gli è stata suggerita di dire quella cosa là, è crollato il mercato, qualcuno ha speculato. Tu dici, qualcuno vuole fare collassare l'Italia. Non è questione di collassare, di guadagnare. Ragazzi, è una guerra, economica molto sottile. E dunque qualcuno ha messo in circolazione il virus per guadagnarci? Ma guarda, si potrebbe risolvere benissimo. No, ma è una domanda questa, pensi di sapere tutto. Allora, la domanda è questa. Sei pienamente convinto del fatto che qualcuno abbia messo in circolo il virus per guadagnarci? Assolutamente sì. Ma la guerra economica, perché? Ragazzi. Ma le pandemie nella storia ci sono sempre state. Le pandemie nella storia ci sono sempre state. Lorenzo da Roma, vai Lorenzo, dimmi. Bello Crucio, senti il volo. Io sto tornando mo dalla Spagna. Sì. Sto in tour. Sì. Tour di che? Tour di droga. Il gruppo mio, che droga un cazzo. Allora, al volo voglio essere rapido, mortacci. Noi, vabbè, veramente non che siamo gruppo hai? Nave. Scusa, che gruppo dobbiamo andare in America, ci abbiamo pure preso il culo perché hanno annullato tutti i festival, bla bla bla. Dovevamo tornare in nave. Ma le navi sono state prese d'assalto. Siamo imbarcati col pullman al confine con Ventimiglia. Non ci hanno manco chiesto i documenti. Ma chi? Con che mezzi? Con col le macchine? Furgone, stavamo col furgone. Con tutto siete col furgone e non vi hanno chiesto nulla. No, non ci hanno manco fermato. No, perché per entrare in Italia non c'è problema, no? Cioè, c'è il problema. Io ho dormito a Nizza, pochi chilometri dall'Italia. Sì. Abbracciano, si baciano, ti offrono delle sigarette, tutto, niente. Cioè, tu dici a Nizza è una festa continua. È uno sputo dall'Italia, ma lo so benissimo, certo. È normale. No, non è normale, ma è chiaro che non è normale. No, ma non è normale. Non è normale. Però no. Evidentemente in Francia ancora non hanno preso provvedimenti come quelli d'Italia. Fermo là. La Zanzara. Dimmi. Bello Crucio, senti il volo. Io sto tornando mo dalla Spagna. Sì. Sto in tour. Sì. Turra di che? Turra di droga? Che gruppo mio, che droga un cazzo. Allora... The metal. Metal will live on. Punk rock tried to kill. Io non condividendo un cazzo di quello che dice Gottardo, voglio spezzare una lancia a suo favore. Io nella zanzara voglio dei bastardi. Non voglio empatia, non voglio dati statistici, per quello c'è il TG1. Io voglio dei combattenti come lui. La zanzara è un'arena di gladiatori e lui è il nostro massimo decimo meridio. Gottardo, tu hai rotto il cazzo di dire tu e Sgarbi che è una banale influenza. Non è una banale influenza. Allora, visto che ti piacciono tanto i numeri, no? Allora, metti caso che parliamo di un milione di influenzati. Su un milione di influenzati della banale influenza c'è la mortalità dello 0,4-0,5%, ovvero 4-5 mila persone. Infatti ogni anno fa 8 mila persone influenza, ma la prendono milioni e milioni di persone. Qui si sta già parlando del 10%, visto che i contagiati sono 12 mila e i morti sono oltre 1000. Quasi la percentuale del 10%, capito? Sposta il grasso dal cervello. A questo gioco, al massacro, io non ci sto. Allora ragazzi, io volevo parlarvi di Radio Maria, perché è abbastanza incredibile quello che succede. In tutto questo casino del coronavirus, i signori di Radio Maria pensano ai soldi. Vi assicuro, è proprio così, pensano ai quattrini. Hanno pubblicato nei giorni scorsi... No, alla raccolta di soldi, ma alla raccolta di soldi per se stessi. Per se stessi, non per... Per le opere pie della Chiesa. No, per se stessi, per se stessi. Nel casino della crisi coronavirus hanno messo online sui social un annuncio con il loro numero verde. Cari ascoltatori, stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. Sappiamo tutti quanti quanto questa radio straordinaria, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti, come un fiore ha bisogno ogni giorno di qualche goccia d'acqua. A causa del coronavirus, diversi ascoltatori in questo periodo non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Così c'è scritto: a causa del coronavirus, diversi ascoltatori in questo... sono aperte. Sì, tra l'altro, in questo periodo non possono andare in posta per il bollettino a favore di... Io dico, ma Don Livio Fanzaghi, io ti apprezzo pure per la tua schiettezza, perché le mie persone, come dire, che dicono quello che pensano mi piacciono sempre. Però non approvo nulla di quello che dici, ma come cazzo ti viene in mente, in mezzo a questo casino, di dire che gli anziani o non so chi non vanno alla posta e non possono fare il bollettino per Radio Maria? Ma chi se ne frega del bollettino per Radio Maria, come del bollettino per qualsiasi altra emittente, no cazzo? Sentiamo Don Fanzaga, vai. E comunque chiudere tutto, cosa vuol dire? Chiudere i giornali, radio, no, Radio Maria, non so, fanno delle frasi a effetto che sono le scuole intere. Però. Non vogliono chiudere Radio Maria, non ti preoccupare. Potrai continuare a parlare come parliamo noi, tranquillamente, senza problemi. Ma è chiaro, cari amici, che se noi usciremo fuori da questa situazione è perché avremo fiducia in Dio. No. No, perché, come ha detto la Madonna, non abbiate paura, perché io sono qui con voi, in mezzo a voi. Non uscire, io ripeto ancora una volta, non voglio essere dissacrante, perché naturalmente ognuno può fare, cioè può anche pregare, certo, per carità, ma assolutamente. Però, mentre pregate, lavatevi le mani e magari state in casa. No, ma non usciremo, grazie a Dio, non ne usciremo, grazie a Dio, ne usciremo. E poi, se posso sottolineare, non possono neanche lavarsi invece nelle vasche di Lourdes, perché sono state chiuse in Francia. Sì, e quindi sì, sai, sì, è un sì, po' sì, in controsenso. Comunque sentiamo cosa. Ancora poi le poste aperte, per donare Radio Maria. Allo stesso modo saranno garantite polizze, assicurazioni e pagamento di bollettini presso le poste. Quindi allora? Cioè, ovviamente abbiate pazienza, non è che anche noi ovviamente siamo un po' preoccupati, perché senza le vostre offerte possiamo chiudere, insomma, che state lì a... se volete chiudere, allora chiudiamo, ma non credo che questa sia la volontà della Madonna, neanche la vostra. Perciò è chiaro che mi fa particolarmente piacere sapere che tutti quelli che vogliono fare le offerte a Radio Maria le possono fare. Incredibile, uno dice: mi raccomando, le poste sono aperte, dunque potete fare le donazioni anche a Radio Maria. E poi la Madonna con la vostra radio non c'entra niente. Cioè, la Madonna non pensa a Radio Maria. Io non so cosa pensi la Madonna, ma certamente non pensa a Radio Maria, la Madonna, dai. Ora, poi c'è un altro personaggio che si chiama Cappellani, Ottavio Cappellani, caro Parenzo, caro Gottardo. Signor Cappellani è uno scrittore anche conosciuto, per carità. Per esempio, Parenzo non lo conosceva, stranamente. Io lo conoscevo. Cappellani, vedi? No. Il quale, ieri, il quale cioè, ieri è riuscito cosa a dire. Cosa ha scritto? No, dimmi qualche libro, no, di Cappellani. Non lo so, i titoli. Io sono negato con i titoli, per cui non mi chiedere a me i titoli. Ieri sera. Ma cosa scrive? Romanzi? No, ma te lo chiedo, romanzi, poi vado a cercarlo. Romanzi. Allora, romanzi. Signor Cappellani. Ah, ma è quel pirla che era ospite con te lì? Sì, da, ieri a Twitter del Debbio. No, del Dubbio. Una volta si diceva del Dubbio. Del Dubbio. Una volta. Del Debbio. Mette il Dubbio. Allora, ieri davanti a me, io ero collegato. Lui era a Catania nelle suoi possedimenti, perché pare abbia dei possedimenti agricoli. Cioè, Cappellani ha detto viva il coronavirus. È riuscito a dire viva il coronavirus. Non sono d'accordo con nessuno, vorrei dire viva la BCE, e non è una cosa che dico io, la dice la scuola economica di Chicago, il liberismo, Milton Friedman, che è un premio Nobel per l'economia, e viva il coronavirus. Persino Salvini mi è sembrato un boy scout da centro sociale. Il coronavirus è una grande occasione per l'economia italiana, in cui finalmente sarà spazzata via questa media borghesia della fabbrichetta, del tutti lì lo Stato, chiudiamo. Ma che stai dicendo? Questa è la pandemia del PIL. Verrà spazzata via la media borghesia, finalmente la media borghesia finirà. Poi che ma cazzo tu gli dicevi sei pazzo o no? Sì, io sono pazzo, no? Sì, sottofondo sì. È il Gottardo di Del Debbio praticamente, no, è il Gottardo di Del Debbio. Beh, uguale. Ogni tragedia, fatelo ogni tacere. Catastrofe, fatelo tacere. Fa arricchire i ricchi e fa rimboccare le mani ai poveri. Ma guai con la lingua. Ne usciranno vincenti, non ha la non testa, non la testa a posto, mandatelo. La media borghesia della fabbrichetta, della Porsche all'ospedale. Finirà. La Porsche, la fabbrichetta, tutto verrà spazzato. Ma era contento di dirlo. Cioè era contento, lui evocava gli shock. Era contento della distruzione, secondo lui, che avverrà dell'economia del nord, eccetera. Chi era quel cretino di poc'anzi? Si chiama Ottavio Cappellani, è uno scrittore delle tue terre, delle parti tue, caro, caro Mughini. Scrittore. Riccardo da Milano, vai Riccardo. Io voglio ringraziare Parenzo al pari degli infermieri, dei medici, del governo e di tutte le persone che stanno impegnando seriamente contro questo coronavirus. Vabbè, questo è banale. Perché, bravo, perché ad avere a che fare con te e con quell'altro imbecille di Gottardo, secondo me Parenzo tutte le sere quando torna a casa combatte con se stesso, dice ma io che ci faccio? Sono già a casa, il vantaggio è che io sono già a casa, questo è il vantaggio. Con questi due imbecilli io che ci faccio? Sono già a casa. Però poi dopo... Ma ogni trasmissione ha il suo Gottardo, quindi va benissimo. Bravo Parenzo, sì. Meno male che ci sei. Purtroppo poi ancora dopo, per poco. L'hai presa secondo me come, l'hai presa, no, secondo me come una missione. Sì, non ho capito, Riccardo, non ho capito quello che vuoi. Il target di questi due è Feltri. Il tuo target invece qual è? Non ho capito, Riccardo. Ma perché ascolti questa trasmissione allora? Perché ascolti questa trasmissione? Io sono uguale a tutti i milioni delle persone che si vuole divertire, però in momenti seri come questi, voi che fate radio e lanciate noi ci divertiamo anche adesso. Noi invece ci divertiamo anche adesso. E ma poi, io infatti non capisco perché non abbiano messo Barisoni fino alle 9, dove avrebbero dovuto mettere Barisoni fino alle 9. Non ho capito che fai? Che fai? Male, molto male. Oggi sei preoccupato per il coronavirus. E sei preoccupato per il coronavirus. Vai all'attacco. Cioè, uno fuma due pacchetti di sigarette al giorno ed è preoccupato per il virus. Perché la cosa bella, sai qual è? Che quando all'inizio cruciale che rischi che ti venga un tumore in gola. È più probabile che ti venga un tumore ai polmoni che non il coronavirus. Qua stiamo esagerando, mettiamoci uno mozzato. quanti anni ho scelto Parenzo. Sì, vabbè. Le cose andavano va bene, Riccardo, sei tutto tu, però quanti anni hai? Quanti anni hai, cretino? Quanti anni hai? Non ti preoccupare. Quanti anni hai, cretino? Quanti anni hai? No, ne ho di più io, non ti preoccupare. Due pacchetti a 47 anni, due pacchetti di sigaretta al giorno. Francamente mi preoccuperei molto più dei due pacchetti di sigaretta al giorno. Della mia anima non me ne frega niente. Riccardo, ti posso dire un'altra cosa? No, l'anima è una questione filosofica / religiosa, di cui non mi importa. Ti dicevo che l'autore poi... No, ma oggi uno dei virologi più importanti... Ma lascia perdere l'autore, uno dei virologi più importanti, non ti interessare di queste cose. Uno dei virologi più importanti che ci sono in Italia ha detto che quelli che fumano, credo che sia, non mi ricordo se quello dell'OMS oppure Galli, ha detto che quelli che fumano le sigarette, molte sigarette, sono i più a rischio, sono molto a rischio. Beh, certo. Lo so. Allora che cazzo vuoi? Allora cosa vuoi? Smetti di fumare. Io Sgarbi lo invito anche 100 volte. Fagli dire le cose che deve dire. La gente sta morendo. Fagli spiegare le statistiche dei tumori in gola a quelli che fumano due pacchetti. Per una semplice libertà per Sgarbi, Penso stava vincendo nel confronto con Cruciani, che ci si mette sto fenomeno ancora con la ricostruzione della zanzara, la ricostruzione la dietrologia dell'aspirante infartuato. Ciao Riccardo, rischi di morire di infarto fra 10 anni. Allora ragazzi, appunto perché non vogliamo parlare sempre di queste cose qua, i litigi tra Gottardo, Parenzo, eccetera, che sono arrivati che non ci saranno più. Che palle che siete, mamma mia. Allora, abbiamo in collegamento una persona che ha trovato un metodo geniale per continuare a guadagnare. Lori, una escort di Roma, 31 anni. Cara Lori, ti abbraccio. Ciao, un bacio a tutti quelli che mi seguono e ci ascoltano. Come stai, cara Lori? Come stai? Tutto bene. No, io non ho paura di niente. Mi sono dovuta, diciamo, creare un nuovo tipo di lavoro, il più vecchio, ma adesso è nuovo. Senti, tu hai pandemia. Spiegami un attimo, io ho letto qui sul tuo profilo su Bacheca Incontri. Benvenuto sul mio profilo. Sono Lori Miss Curvy, dunque sei abbastanza, cioè sei un po' cicciottella, sei un po'. No, cicciottella no, le forme. Hai sono le forme. Sì, una modella curvy. Una bellezza tutta italiana, 31 anni, mora e con un fisico apprezzabile, come puoi vedere dalle mie recenti foto. Fisico apprezzabile cosa vuol dire? Cioè è un fisico fisico che piace. È apprezzabile, non è brutto, che può piacere, altrimenti com'è non lo scrivevo. Com'è che sei arrivata a 31 anni a fare la prostituta? Perché come lavoro, diciamo che mi permette di pagare le bollette, di vivere una vita molto abbastanza elevata e di stare lontana da voi uomini. Lo può fare a casa come me? Sì. Lo fa a casa come me, quindi è comodissimo. Lo faccio a casa, sto lontana da voi uomini che siete molto complessi. Ma come complessi? Che vuol dire? Perché per essere... Ho tanti problemi, ci mancano i vostri problemi, ho risolto. No. Allora, leggo ancora. Prediligo uomini italiani di buon gusto, educati e puliti, che apprezzano incontri di alto livello. Amo sentire la tua voce quando mi contatti e ti riserverò un trattamento principesco se tu mi rispetterai sin dall'inizio. Ambiente indipendente e riservato. E vabbè, poi seguono le foto. All'ingresso ci sarà il controllo della temperatura con termoscanner. Ora voglio dire, quante volte ti è capitato in questi giorni? Beh, mi è capitato un paio di volte all'ingresso. Innanzitutto prediligo gente che è già stata con me. Poi la temperatura viene sicuramente misurata, perché mi sono inventata questa cosa perché la gente ha paura in questo periodo molto particolare. Cioè, ma che c'hai? Semplicemente un coso? C'è semplicemente un misuratore, un termometro? Cosa c'è? Cosa che non ho, no, un termoscanner che ho acquistato su internet. Ho detto, qui la gente non viene più. Magari, visto che sono una ragazza italiana, magari ci metto anche che misuro la temperatura, la gente è più serena nell'incontrarmi e magari capisce che sono una persona responsabile. Senti, ma quanti clienti hai fatto in questi giorni, proprio oggi per esempio? Non mi sono fermata, oggi è stato un pochino lento, però nella settimana mi sono andata a fare. Perché... Cioè da quando c'è il decreto, cioè da quando non si può uscire più, quanti ne hai fatti? Beh, ne ho fatti abbastanza. Cioè una decina? Parliamo di numeri, non mi va di parlare di numeri, però abbastanza, mi sono dato da fare. Però ecco, ecco, devono utilizzare e farci guardare il prezzo. Ma quando qualcuno esce e viene lì, quando uno viene lì esce, si porta l'autocertificazione, cosa si porta? La carta igienica dicendo che sta andando su, no, che è stato al supermercato. No, vengono dal clienti che vengono dal lavoro. Vengono dal lavoro. Vengono dall'ufficio, stanchi, esausti, hanno bisogno di relax, del mio massaggio e del mio trattamento principesco. No, ma però... infatti la cosa è questa. Secondo me loro scrivono, che cosa scrivono? Ci sono alcuni che non hanno nulla e se ne fregano, magari non vengono fermati. Però per evitare guai, tu semplicemente dici sto rientrando a casa dal lavoro, passano da casa della signorina, arrivederci, grazie. Sì, bene, non c'è nulla di male perché stanno tornando dal lavoro, sono per strada e passano tranquillamente nel mio ingresso indipendente. Poi ragazzi, scusate, in questo periodo sono tutti allupati, basta uscire e portare il cane che mi si incappettano anche il cane. La prima minuta. Addirittura. Anche il cane mio stesso. Senta, sono così signora professionista. Sono così terrorizzata che mi guardi, sono veramente così terrorizzata che un altro poco mi si incappettano anche il mio cagnolino, che è piccolino, che è un chihuahua. Scusami Lori, però sono arrabbiati perché stanno tutti tappati dentro casa in questi giorni, chiaramente tu porti il cane in giro, magari trovi qualcun altro col cane in giro, un uomo che sta in casa, deve sopportare la moglie e la fidanzata ed è abituato magari a scopare con altre persone e appena vede te questo si allupa immediatamente. Immediatamente mi chiamano, richieste anche di fotografie con cambi di altri regali. Allora possiamo dire una cosa, tu come si svolge la cosa? Le persone ti chiamano, dice vabbè, passo da te, no? E cioè tu arrivano e tu misuri la febbre all'ingresso col mio termoscanner, gli misuro la febbre, se la temperatura è 35,6 e non supera e non arriva ai 37 è possibile effettuare questo massaggio tantrico. Ma magari Lori, magari uno è lupato e c'ha la febbre da allupamento e lei perde dei clienti potenziali. No, la febbre non c'è da allupamento, per me è importante questa cosa. Però posso dirti una cosa, allora se uno vuole fare le cose seriamente, secondo me il fatto che tu misuri la febbre non è una protezione da nulla, per cui uno potrebbe essere asintomatico, come sai, per cui tu un po' di rischio te lo prendi, diciamo la verità, cioè un po' di rischio te lo prendi. Un po' di timore c'è, appunto, diminuito gli appuntamenti, non posso fare 10 appuntamenti al giorno come lavoravo prima. Ne fai due o tre, giustamente, con le giuste precauzioni, niente bacio di bocca, niente secrezioni salivari, come dice anche il ministro della salute. E come fai, scusa, pompini zero? Culo? No, uso posizioni alterne. Come? Cioè spiegami un po', spiegami questa cosa. Allontano il viso dal proprio faccio, dal mio cliente. Cioè i due visi non possono essere a contatto. No, non possono essere vicini, io magari mi metto anche a quattro zampe e il cliente si mette dietro di me, non voglio essere volgare. No, allontaniamo le secrezioni vaginali. More ferrarum. Uso soltanto le mie mani, la mia bocca, proprio la protezione giusta e dovuta, ma non bacio. Come i clienti hanno una voglia assurda, sono sconvolta perché vogliono tutti il bacio. Con lo sa, coronavirus, il morte. Si deve rinunciare al bacio. Il coronavirus non gliene frega un cazzo. Senta Lori, una precauzione. Sì, dica, se Cruciani stasera o domani la richiama, visto che lei vuole educati e puliti, non lo accetti. Ma io sono a Milano, però è anche difficile. Sulla pulizia non ci metterei mai la mano. Però, cara Lori, io sono, come sai, il re delle escort, diciamo, conosco questo mondo molto bene. Adesso voglio farti questa domanda. Le precauzioni non sono mai troppe. In questo periodo qui, tu giustamente dici misuro la febbre e può non bastare, però va bene. C'è anche un'altra precauzione, la mucchina, d'accordo, sì. Tutto quello che vuoi. Però a quel punto io voglio capire, la cosa principale che vogliono i clienti di solito è il sesso orale, cioè il famoso pompino. Pompino. Tu come lo fai? Coperto o scoperto? No, in questo periodo assolutamente coperto. Amica mia, ma come si fa però? Coperto perché non, anche se le secrezioni degli organi sessuali non trasmettono il virus. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono che si potrebbe al limite. Ho letto oggi questa cosa per il sesso su spy.it, su un giornale, che le secrezioni vaginali non attaccano. No, quindi possiamo tranquillamente un po' di lingua, che ben venga in questo stress psicofisico e mentale. Ma sì, dai, mettiamoci un po' di lingua, dai. Ma non, cara Lori, però c'è un'altra cosa da dire. Le tue prestazioni prevedono anche il sesso anale, tanto per capire un po' se qualcuno... Anche soprattutto anale, sì, io soprattutto sono la più anale. Completa. Sì, caro Gottardo, mi sembra che sia già molto su di giri dopo questa notizia. No, la tariffa? Io parto dalle 150 in su. Ah, in questo però, periodo bisognerebbe aumentare però, il prezzo, però attenzione. Aumento, infatti riflettevo. Ma non è vero. Di aumentare per il timore di beccarmi qualcosa in questo ma caso. Ma devi, devi assolutamente. Devo aumentare. Sì, ma i clienti non si fanno problemi pur di venire. Cioè la tua tariffa normale qual è, scusami? La mia tariffa parte dalle 100 normale, 150 completa e 200 di un tampone col massaggio. Mm. Il tampone ancora non si può acquistare, altrimenti farei anche il tampone. Però questo termoscanner come funziona? All'ingresso c'è una specie All'ingresso glielo punto dritto in fronte, misuro. Però lei, Lori, posso darle un suggerimento? Lei ha perso una fetta di mercato. Se invece del termoscanner introducesse un grosso termometro nell'ano, c'è una fetta del mercato che potrebbe gradire questo tipo di pratica. No, nell'ano si chiama massaggio prostatico ed è anche benvenuto nel mio massaggio tantrico. Adorano questo tipo di massaggio. Quindi io sono. Ma quanto dura questo massaggio tantrico? 40 minuti, sfiorare le parti intime, sfiorare anche tutti i punti erogeni dell'uomo. Per me è molto importante perché magari non finisco con la mia bocca sul proprio pene del cliente. Beh, e quindi sono meno spaventata e lo mando via e lo faccio venire. Quindi è una strategia di mercato questa, la mia. Qualcuno mi chiede, sei trans? No, non sei trans, no, assolutamente. No, non sono una trans, no, sono una donna, no. Va bene. Altrimenti lo direi... No, per carità, assolutamente. Comunque la cosa incredibile che mi ha fatto impazzire è questa cosa: la prostituta, la puttana, possiamo dire, perché ovviamente puttane è un termine puttana, problema, è un termine straordinario, con il termoscanner, una cosa pazzesca. Il termoscanner che nessuno sa adesso, dopo questa notizia, tutte quante col termoscanner. Oppure la polizia, dato oppure il termoscanner, scusi. L'ha comprato in farmacia. Ma una balla con la figura. Ma secondo me è semplicemente un coso. Che si trova è semplicemente un termometro. Sì, secondo me una pistola che si compra, si ordina su internet. Ma dove l'ha comprato? In Cina l'ha ordinato? Appunto, dove l'ha ordinato? In Cina? Non dove l'ha posso ordinato? Dire dove l'ho ordinato, perché sono tutte quante a comprare questo termoscanner che ci sono tutte a seguirmi, no? Vuoi essere l'unica puttana di Roma con il termoscanner? Sì, perché mi dicono, mamma mia, allora lavorerai tantissimo, sei stupenda. Che genio che sei della prostituzione. Comunque tu mi stai dicendo che nonostante questa situazione del coronavirus è pieno di persone che ti chiamano per venire da te. Pieno, non hanno paura di niente, il sesso vince sempre. Sì, però qua, alla fine che fai? Fai una selezione, non vengono, che succede? Perché mi dici che ne fai 2-3 in questi giorni? No, io cerco di ridurre, io ho degli orari, alle 18 c'è il coprifuoco, massimo alle 18, massimo 19 io posso ricevere. Poi spengo il telefono, magari posso dare solo informazioni. Poi spengo il telefono e riduco. Informazioni da? Perché la chiama? Per quali informazioni chiama la prostituta? Scusi. No, per informazioni di quello che faccio, di quei miei servizi. Certo. Ma che cos'è? Ma mica il numero verde della Protezione Civile, signora mia? Io le voglio anche bene, ma dice lascia il numero per le informazioni. Ma chiameranno lo spallanzare il sacco di... Ma io non lo so. Lori, la tua specialità, diciamola a tutti. Lori, escort di Roma, 31 anni. Cioè, la tua specialità, qual è la tua specialità sessuale? Qual è? Abbiamo capito. Segreto professionale. No, ma dimmi la stessa specialità, perché dovrebbero avvicinarsi a te, a parte il termoscanner che non ce ne frega niente, ma quale è la bocca. Come ti sei però bocca. Coperto in questo periodo. Un bacio, grazie. Ciao, Lori. Ciao. La Zanzara. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene. Ai gestori di questi bar vorrei dire, ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? Bene. A Napoli! Ma che c'è la mi sente il cervello? Facetemi capire. Che vado mi sente il cervello? Forse un attimo mi vado a stare a casa. Dovete stare a casa e che spacci, ma non capi! Ma non capi! che dice dobbiamo stare a casa? Eccoci, Adriano da Roma, etero. Io volevo fare un ragionamento sugli aromi anali e vaginali. Ma c'è anche quello coglionazzo di Parenzo? È omosessuale repressi e frustrato? Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! Prega a casa tua! Ma prega a casa prega tua! Prega a casa, coglione! Sì. Prega per la strada, prega in macchina! Prega a voce bassa, sì. In silenzio nella testa! Sì. Non far vedere che sei tanto bravino perché vai a messa la domenica, quando il lunedì fai il porco in giro dappertutto! Cominciamo a capire! A fare i bocchini dappertutto! Brava. Vergognatevi, maledetti! Allora ragazzi, qualcuno protesta per le cose che ho detto su Radio Maria, ma in realtà nessuno contesta il diritto di Radio Maria di approvvigionarsi tramite una raccolta di fondi, figuriamoci, assolutamente no, è il diritto di esistere di Radio Maria. Qui si criticava leggermente, con parole molto pacate, criticavamo prima il fatto di legare questa raccolta fondi al coronavirus, cioè dicendo le poste sono aperte, no, dicendo agli ascoltatori, a chi legge i social di Radio Maria, le poste sono aperte, andate non a donare dei soldi, no, ma a donare dei soldi a Radio Maria. Dai, su, questo si criticava, mica il diritto di Radio Maria di sopravvivere o anche di promuovere una raccolta di fondi. Il diritto alla vita di Radio Maria. Il diritto, direbbe Pannella, alla vita. A proposito, nelle, come avete già sentito prima da quel metalmeccanico, all'interno delle fabbriche italiane c'è un po' di, insomma, c'è un po' di maretta. Molte persone protestano. E allora io credo che Mario Capanna abbia qualcosa da dirci sugli operai che sono, non dico sull'orlo di una rivolta. La situazione naturalmente è eccellente, ecco. E abbiamo fatto una mappatura delle rivolte all'interno delle fabbriche italiane, per ora ancora molto molto poco. Il suggerimento che mi sento di dare dai microfoni della cosiddetta Confindustria, allora, l'unione dei cosiddetti industriali, sì, beh, sì, fino a prova contraria, è quella in questo momento, lunedì, alla riapertura delle fabbriche, fare una bella sorpresina al cosiddetto padronato, quello, cioè, così tecnicamente che vuol, si chiama. Che vuol dire? Ogni operaio occupi la fabbrica annunciando il coronavirus. Questa è la grande tecnica che io vi invito ad utilizzare. Cioè, qualcuno potrebbe dire procurato allarme, esatto. Reattucoli in confronto a quello che abbiamo fatto noi negli anni 70. Reattucoli. Allora, se ognuno di voi nella fabbrica dicesse attenzione, ho il coronavirus e tentasse di abbracciare il padrone, scapperebbero tutti come conigli. Come questo, conigli. Questo in questo modo noi dubbio. Avremo in mano i gangli del paese. I gangli del paese. Io ovviamente non posso partecipare a questo tipo di lotta perché ho una certa età e devo stare a casa. Beh, però, quindi scusi. Posso nella mia villa in campagna, quindi dalla campagna e col vitalizio posso però da remoto coordinare le operazioni delle compagne e dei compagni sparsi in tutta Italia, nelle cellule, no. Si chiamavano cellule peraltro negli anni 70, però le chiamavamo cellule operaie, le cellule in silenzio devi stare, le cellule ricordano un organismo microbiologico, no? Le cellule operaie si chiamavano. In questo caso, quindi naturalmente potremmo dire saremo il virus, molto bene, esattamente, saremo il virus all'interno delle fabbriche, si blocca il paese completamente, amici. Su completamente. Questo non c'è dubbio, già è mezzo bloccato. Non siamo mai riusciti, pensate all'occasione incredibile, negli anni 70 non ci siamo mai riusciti, sì. Anche durante il terrorismo le fabbriche, pensate, non chiusero mai, sì, pensate a quale occasione possiamo avere in queste ore di bloccare definitivamente il capitalismo questo che distrugge vero, le vite umane. Naturalmente io vi rappresento e sono qui per fare delle grandi battaglie. Quando finirà tutto questo Ma naturalmente verrò quando finirà questo periodo, io verrò a visitarvi nelle fabbriche, voi starete lì per giorni e giorni chiusi all'interno delle senza fabbriche, stipendio, dormirete dentro le fabbriche. Vabbè, senza la lotta operaia si fa senza stipendio. I diritti si ottengono senza stipendio, questo mi sembra naturale. Io ne ho fatte tante di battaglie senza stipendio, mi pare evidente. Poi dopo mi hanno eletto deputato per rappresentare gli operai all'interno della Camera Alta e quindi adesso non facciamo della demagogia in stile Gilletti, perché lei è molto simile a quel Gilletti lì, sì, a quel vero, Gilletti, sì, un po', sì, che fa le polemiche, mi invita in studio per cui, poi attaccarmi. Per cui il consiglio finale, la direttiva messaggio molto finale semplice, andare in fabbrica lunedì alle 7 del mattino, dire io ho il coronavirus quando tutti gli altri compagni sono dentro, gli altri operai sono dentro, immediatamente chiudere le porte, i padroni scappano con le dita, con le, come, scappano con la coda tra le gambe e abbiamo il paese in mano a quel punto, abbiamo il paese in mano, abbiamo il paese in mano. Grazie, grazie a Capanna, grazie a Capanna. Intanto Vittorio Feltri dice che Conte non dovrebbe fare le conferenze stampa alle 10.30 di sera. Una cosa incredibile. Perché lui è già a dormire. Senti, senti sta roba. Sì. Lui è già a dormire. Una cosa pazzesca. Vabbè. La cosa che mi ha più impressionato è un'altra. Cioè il fatto che Conte, come sì, Dracula, solamente di notte sia palese. Cioè quando fa le conferenze stampa le fa alle 10 di sera, 10 e mezzo di sera, quando la gente è rincoglionita e ha voglia di dormire, e poi quando sente parlare Conte non capisce niente. Ma c'è una ragione a Feltri. Se tu devi prendere dei provvedimenti duri, ma no, lo fai quando il paese è fermo, a borse chiuse, con una situazione. Trump la fa alle 3 del pomeriggio, però. Trump la fa alle 3 del pomeriggio. Vabbè, però, appunto, non è una differenza fondamentale. Oggettivamente, tra i guarda, due. Io critico molto di più un'altra cosa. Oggi è apparsa una, credo, una foto o una comunicazione via social della presidenza del Consiglio in cui c'è una foto, una faccia di Conte estasiata, sai, quelle foto posate anche con un leggero sorriso, in cui c'è scritto che lui sua propaganda. Sì, non si fa propaganda durante un periodo come questo. Non si no, fa. Si fa la sua promozione, però è nella gestione di questa cosa si sta guadagnando un suo profilo, a mio avviso. Poi si potrà criticare. Rimaniamo più vedere, distanti, certo, oggi per riabbracciarci domani. Così è scritto nella pubblicità via web. Per riabbracciarci domani, fermiamoci oggi per correre più veloce domani. C'è una faccia di Conte. Ha preso delle misure impopolari all'inizio, però si è preso la responsabilità di prendere, di assumere misure impopolari. Io trovo, quindi questa comunicazione un po' patinata su web, eccetera, che si riferisce alle sue parole. L'hai dette, che cazzo di bisogno c'è di mettere la foto tua estasiata che guarda sì, verso l'alto, carità, con le tue frasi? Dai, su, ma che roba è? Allora, Antonio da Roma, vai, Antonio. Dimmi, dimmi. Buonasera. Ciao David, buonasera. Dimmi. Allora, buonasera, io la racco, la guido l'automedica, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Vabbè, ormai a Roma tra un po', secondo me, a Tor Bella Monaca che si mettono a vendere le mascherine, perché è una cosa da ride. In che senso, scusa, Antonio? Nel senso che non si trovano, nel senso che ormai sembra. Le mascherine pare che a Roma non si trovino, sì. Ma me l'ha detto anche il signor Telese, dice non ci sono le mascherine. Questo, a me non me ne frega il cazzo. Oggi, se dico solo questo, perché oggi non sono. Per 4, se te ne serve una, io ne ho comprate 8. Se te ne serve una, poi mi lasci. Io ne ho guarda, comprate David, 8. Non mi fai sbattute perché dei ragazzini, perché io ce lavoro con l'ospedale. No. Oggi stavo all'ospedale. Davvero? Mio, no, io ti dico no, davvero. No, io sono riuscito a comprarla. Amazon 10 mascherine, ma non c'entra no, niente. No, no, non su Amazon. Se tu stai a Roma, no, te lo giuro, te lo dico. Se tu stai, no, per questo te lo dicevo. Se, visto che tu sei di Roma, lo sai, a Colla di Rienzo c'è una delle poche farmacie che è rifornita delle mascherine. Te lo dico per informazione. E se te ne vabbè, Antonio, una, allora che vuoi dire? Non ho capito. Io sto fa una denuncia per farti capire che cazzo di paese. Allora, certo, questo è gravissimo, fai bene a dire. Del 118, l'ambulanza e l'automedica non sono potuti uscire perché c'è rischio, perché ci hanno chiamato un sacco di gente, poi anzi ti chiamano che manca il vero, però quindi non puoi andare senza mascherine. E la cosa ridicola è che questo stato ti comincia a dire. Cioè, tu non ho capito, tu hai l'ambulanza, sei un infermiere, cioè, l'automedica. L'automedica e porto l'ambulanza. E non hai la mascherina in dotazione. C'ha ragione. Io ce n'ho calcola, io adesso ce n'ho una, io tra un po', tra mezz'ora devo andare qui, so se la conosci. Vabbè, all'Arbuccione c'è sta una clinica, torna a prendere due persone e portarla a casa. So la mascherina quella che non serve praticamente a niente, quella della chirurgia, quella non serve a niente per coronavirus. La metti così, pare è impagliativo. Ma quello che ti voglio dire è ridicolo. Oggi è 118, per 5 ore, un'ambulanza in automatica bloccati perché non ci stavano le mascherine, poi sono riusciti a rimediarle. Allora, sto stato, no? Te dice di non uscire, e c'hanno ragione, perché è vero, non uscite, mi raccomando, lavatevi le mani, fate verbile, fate quello che cazzo volete. Tu mi dovresti, tu stato a mettere a ogni ospedale ogni 5-10 km un gazebo, gratis mi dovresti dare mascherine, no che la gente si deve andare a problema. Eh no, ma questo l'abbiamo detto, la grazie Giuseppe da Verona, Giuseppe... No, ma hai ragione, Giuseppe da Verona, vai. Giuseppe da Verona, dimmi. Mi sente male, eh? No, ma... vediamo, dimmi, vai avanti. No, niente, non, lasci... non si sente un cazzo. Daniele da Roma, Daniele da Roma. Daniele, dimmi. Daniele? Francesco, provincia di Potenza, dai. Francesco, provincia di Potenza. Vai. Pronto, Cruciani. Dimmi, Francesco, dimmi. Gli volevo dire una cosa a Parenzo, che lo sento un poco moscio oggi. No, non voglio. Non mi pare. Dimmi. No, è un po' triste. Io no, non voglio difendere Gottardo, lungi da me, però dal punto di vista utilitaristico il ragionamento che fanno l'Inghilterra, la Germania, la Confindustria, la Confindustria, sì, potrebbe avere senso. Cioè loro dicono ci prepariamo ad avere il 60% di contagiati, non lo dico io, l'ha detto il cancelliere della Germania. Vabbè, pare, allora... nel senso che dici già le parole da sotto. Fammi finire. No, io non è che dico che è una soluzione giusta o la soluzione è sbagliata, però a differenza dell'Italia che hanno paralizzato la regione più produttiva d'Europa, la Lombardia, vabbè, e allora... il Veneto, a paralizzare il sistema sanitario, e sempre di sempre. Senti, dici che Parenzo è moscio, poi ci metti tre ore a esprimere un concetto. No, io questo è quello che gli volevo dire a Parenzo, che Gottardo non ha tutti i torti a dire questa cosa. Cioè politicamente un ragionamento che esiste, il ragionamento che ha fatto Truman quando ha deciso di buttare la bomba atomica. Cioè? Qual è il ragionamento? Non ho capito. Cioè uccidere più i giapponesi non si sarebbero mai arresi se non avessero buttato la bomba atomica, se non avessero mostrato tutta la loro potenza. Beh, di ma fuoco. Che c'è? Ma nessuno dice che bisogna chiudere tutto il sistema industriale italiano, eh? Dice, si ma, dice ma, semplicemente ma vista la situazione di prendere tante precauzioni, questo è il tema, e non è un'influenza. Beh, chiudere tutti dentro, questo è la questione. Chiudere tutti non so dentro non è un'influenza. Io non dico che l'influenza ridurre al minimo. È ridurre al minimo, però così ciao, riduce ciao, anche Francesco, al minimo l'economia. Ciao Francesco. Ciao. Allora ragazzi, le follie del calcio. Balotelli che attacca la Juventus. Vogliamo sentire sta follia di Balotelli? Sentiamola, dai, vi prego, sentiamola. Ce ne sono tante di follie del calcio, eh? L'UEFA che con ritardo esposta chiude la Champions League, sospende la Champions League e l'Europa League, forse sospenderà gli europei la settimana prossima. E il giocatore dell'Atletico Madrid speriamo. Che sputa e tossisce davanti ai giornalisti mentre passa l'altro giorno, che Diego follia. Costa. E un altro giocatore del Paris Saint-Germain, Kurzawa, che si butta in mezzo ai tifosi, esulta a petto nudo in mezzo ai tifosi riuniti davanti allo stadio dove non si poteva entrare dopo la partita Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Balotelli poi attacca la Juventus in un collegamento col nostro amico Erfaina, tifoso della Lazio. Erfaina, abbiamo sentito mille volte. Chi è Erfaina? L'ho rimosso. Secondi in classifica appunto da Juve, guarda che sta. Ma siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto. Certo. L'hanno fatta tornare prima, poi lo stop del campionato. Che coglione, ragazzi. One Express, il pallet espresso. Vi presenta la Zanzara. Facciamo formare il pubblico, perché non mi stanno bene a me queste cose. Famo formare il pubblico, poi facessero le trasmissioni Parenzo, Cruciani, me ne frega un cazzo. C'è tensione, tradimento. Ma sulla Santanchè si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere. Lo vuole ripetere. Perché ha detto che meglio piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Eccolo. Lui praticamente alcuni mesi fa mi chiamò e si fece pure la pugnetta per telefono. Una notizia appresa dalla trasmissione di ieri è che il karma mo per due mesi non scopa, perché senza welcome pisello al chiodo. Compare Fra, ascolta quello che ti dico, l'ha visto che legge che ha nessuto mo, che l'ha fatto il presidente due consigli. Ma praticamente dobbiamo stare 40 giorni con la moglie dentro. E io preferisco il coronavirus e non stare con la moglie dentro. Quel grandissimo cornuto del presidente del consiglio che venisse a ire sta per aiuto con la moglie, ma perché mi sta rompendo i cugini, mo? Perché io con mia moglie dentro 40 giorni non ci sto, ok? E dicetecelo a tutti che siete al governo, figli di puttana. Oh Cruciani, vai a chiamare il Brasile, voglio sapere che cazzo ne pensa di questo coronavirus. Dai, paparazzo! Il Brasile dovrebbe arrivare a destinazione, ma non si vede l'ombra per adesso. Non si... Dove deve arrivare? Dovrebbe arrivare qui, dovrebbe arrivare. Ma dove? A Milano? Ma no, che a Milano? Ah, ecco. Allora, vivo all'estero, un ruolo dirigenziale in Confindustria Serbia, mi scrive un signore. Ho sentito Lori Termoputtana, non è male come definizione, il signore della Confindustria Serbia. Se ho ben capito, per andare in giro a Roma bisogna autocertificarsi. Cosa scrivono i clienti sull'autocertificazione? Vado a troie? No, amico mio, semplicemente scrivono sto andando a casa e sperano poi, ovviamente, di non essere beccati nel secondo tragitto. Oppure semplicemente hanno la certificazione per tornare a casa, escono dall'ufficio, passano dalla troie e poi vanno a casa. Non è così complicato adesso. Poi è una cazzata ovviamente, ma non lo scrivono nero su bianco. A mio discapito, capito? Allora, continuiamo con Feltri però. Se mi chiudono i tabaccai sono morto, preoccupato dalla chiusura dei tabaccai. Non avevo capito che i tabaccai restassero aperti, che era poi la mia preoccupazione, perché senza tabaccai io sono morto, perché la mia attività principale durante il giorno è quella di fumare, quindi se mi vengono meno le sigarette è un disastro, capisci? Certo. Cioè, insomma, Conte dovrebbe fare le conferenze stampa alle 7 di sera, meglio ancora alle 17, in modo che tutti noi si possa anche capire, cercare di approfondire, di analizzare. Senti Vittorio, hai cambiato molto le tue abitudini di vita in questo periodo? No, siccome io non faccio un cavolo in tutto il giorno tranne che lavorare, alla sera rientro in casa, sono, non dico stanco, morto, però do un'occhiata a qualche programma televisivo che di solito non mi piace, poi vado a letto, leggo 4-5 pagine e piombo in un sonno che mi avvolge per tutta la notte. Io se non dormo almeno 9 ore non sono in grado neanche di alzarmi al mattino. Eugenio D'Arieti, vai Eugenio, vai. Una vita principesca quella di Feltri. Buonasera anche a Parenzo. Dimmi. Ecco, volevo dire, Cruciani, che non mi sono affatto trovato d'accordo con quello che dicevi su Radio Maria. E pazienza, amico mio, che ti devo dire? No, volevo soltanto dirti perché. Dimmi. Fermo restando, anche a me sembra fuori diciamo un po' fuori. Ma noi, ma quello si criticava, non altro. Non è che, ma ognuno può chiedere soldi quanto vuole, figuriamoci, anzi, meno male che uno chiede i soldi. In questo momento sì, però non è il momento adatto. Viceversa, ho visto che hai fatto dell'ironia sul fatto che Radio Maria dice che Dio può salvare l'umanità. No, non la può salvare Dio l'umanità, ti posso assicurare. Dio l'umanità non la può salvare. Guarda, dico, poi uno può crederci, ma uno ci può credere, uno ci può anche credere che Dio salvi l'umanità. No, non è un'opinione, amico mio. Non è un'opinione, perché non è che non è. Sì, d'accordo. Ma infatti non si può, diciamo, mettere in ridicolo la fede della gente. No, però scusami, Eugenio, io scienza e fede. No, ma che fede? Secondo te veramente Dio può salvare l'umanità? Non ho capito. Secondo te Dio può salvare l'umanità? Chi crede in un creatore? Ma Dio non sta negli ospedali. Dio non è negli ospedali. Non ha le mani dei chirurghi, cioè non ha le mani dei medici, non ha le mani di chi sta lavorando a un vaccino, chi sta lavorando su altre cose. Dio. Questa è una tua opinione. No, non ce l'ha, non ce l'ha. Ma perché non è così? Materialmente non è così, amico mio. Non è così. Per chi crede, Dio è in quelle persone che lavorano negli ospedali. Chiunque prende la decisione giusta. Per dire, capito? Ma per carità, va tutto bene, però mi sembra fuori luogo fare un po' di troppa, diciamo, ironia sulla fede della gente. Vabbè, Luca, ho capito. Luca dalla provincia di Padova. Luca, provincia di Padova, dai. Dimmi, Luca, sì, dimmi Luca. Pronto, mi senti? Sì, vai, dimmi. Sì, ciao. Niente, io sono un agente di viaggi della provincia di Padova da 20 anni. Sì. A questa parte ovviamente siamo il settore forse più colpito, però al di là di questo, quello che volevo chiederti stasera, siccome ho fatto anche un video che pubblicherò domani o nei prossimi giorni, noi stiamo facendo tutti i sacrifici anche economici, c'è una categoria che però mi sono accorto che non sta facendo sacrifici economici, che è la politica. Cioè, secondo te i politici dovrebbero rinunciare al 50% dello stipendio, che dovrebbero fare? Sì, io sono disposto anche a aprire un conto corrente per poi, se mi dai una mano anche te, poi ovviamente darlo tutto in beneficenza a tutti quegli istituti che adesso stanno lavorando. Rendere conto tutti i giorni chi sì, però Luca, scusami, sì. Va benissimo tutto, ma però no, la proposta di Luca è dire in questo periodo no, la politica che tra l'altro è come dire, praticamente non opera all'interno del Parlamento, perché il Parlamento è sostanzialmente chiuso, certo. Dovrebbe fare un sacrificio a livello di stipendi, non è del tutto sbagliato. Ciao Luca. Sì, io sto rinunciando al mio stipendio. Ciao. Allora, Ottavio Cappellani, scrittore from Catania, dice viva il coronavirus. L'ha detto ieri sera, chiamiamolo, vai. Pronto? Ottavio? Sono Cruciani, amico mio. Ma che cazzo hai fatto? Ma che hai combinato? Sono qui con Parenzo. Cosa hai combinato? Hai detto viva il coronavirus. Ma come cazzo fai? Ma economicamente, ma figurati se dicevo Ho capito economicamente, ma è pur sempre una cazzata. Ma che vuol dire viva il coronavirus? Dai. Allora, situazionisticamente, non lo ancora mai detto nessuno. Vive il coronavirus. Vabbè, ho capito che significa. Non è che uno, perché non l'ha mai detto nessuno, applicata all'economia, viva il coronavirus. Allora, la cosa è molto semplice, la classe media borghese della fabbrichetta è quella che campa sul debito. Il debito si trasmette allo Stato e lo Stato ci alza le tasse. Sì, ma che vuol dire questo? Non ho capito. Cosa vuol dire? Dunque, tu hai detto che è una grande occasione per spazzare via l'economia della fabbrichetta. Certo, cioè le rendite. Finisce la media borghesia, che è la vera parassita di ogni sistema economico. Ma finisce perché muoiono le persone. E chi è che ne ha vantaggio? Chi ne ha vantaggio? I veri ricchi, che diventano più ricchi, e i veri poveri. Ma chi è questo qua in generale? Come si chiama? Le mani, come sono da sempre. Ma chi è questo qua? Cioè, scusami, però Ottavio. Cioè, dimmi chi è questo qua? Io non ho idea di chi sia sto qua. È uno scrittore. No, Friedman, chi è questo qua? È uno scrittore che si chiama. Tu stai chiedendo Parenzo. No, tu ti sei guadagnato i 5 minuti di notorietà pure tu. Bravo, hai fatto benissimo. Bravo, ti dai che ti. Parenzo, tu che cazzo sei? Io sono tutto. No, con questa stronzata che hai detto, sei diventato famoso per un giorno. Bravo. No, giustamente Cappellani dice chi cazzo sei, perché sai usare Google. Sì, però almeno non risulto famoso per stronzate ciniche dette in questo modo in televisione, almeno. Quindi io ho riportato le tesi di Milton Friedman. Bravo, evviva. Sì, però scusami, quando tu dici una grande economici, bravo. Sì, ho capito, ma tu esulti per questo, sei contento per questo, sei contento, questo è il punto. Fammi precisare. La fine della borghesia. Friedman la chiama disaster. Sono disastri, sono catastrofi. È chiaro che i morti siano una tragedia. Questo non toglie che sia una grande occasione economica. Quindi, ma come una grande occasione economica? Ma tu eri contento quando lo dicevi? Economicamente, viva il coronavirus. Ma come? Ma che vuol dire viva il coronavirus economicamente? Ancora, lo ripete ancora, ma, idiota. Ma tu sei contento ancora. Che una parte della parte che bisogna dire. Ti sto dicendo. Ma no, ma perché come si fa a dire con le persone che davvero. Siccome le persone stanno morendo davvero, scusami. Siccome le persone stanno morendo davvero. La bestialità, casomai, l'avrebbe detta Milton Friedman. Quindi perché dici io davvero? Sì, però tu no, scusami però tu sei soddisfatto tu sei, del fatto tu che sei soddisfatto muoia, a parte che bisogna vedere se l'ha detta e poi tu sei soddisfatto come se l'ha detta? Ma no, ma voglio dire, non era applicata una tragedia come no, ti ripeto, sta applicata allo tsunami. Tu lo dici come se fossi contento di questa roba qua, come se fossi contento del fatto che è tutto da dimostrare, la gente muore, dunque senti, ci sono gli apocalittici e ci sono gli integrati, se permetti io sto godendo come un riccio in calore, come dice. Stai godendo perché cosa? Pensate. Ma perché stai godendo? Non per i morti, ma che l'apocalisse finalmente piombasse su questa terra infima non può che essere una bella notizia. Cioè, tu sei contento dell'apocalisse? Proprio, i coglioni crescono come funghi. Come ma funghi perché, crescono? Wow, incredibile. Incredibile. Da sì, per carità, dico coglione. Funghi. Come funghi, ma come funghi crescono? Importante. Il mondo si fonda. Vedo, se, sembrerebbe quasi una parodia. Sembrerebbe la parodia. Sai la parodia quando io faccio Freccero? Sembra quasi la parodia, capito? Fammi, spiegami oh, meglio. Bellissimo, bellissimo il disastro del mondo, dai. Ma io sono un barone decaduto, che sono stato in campagna, se cazzo perché frega a me della vita borghesia, stavo qui una fabbrichetta. Ho capito, ma sono quelli che probabilmente... Fabbrichetta, di cosa parla? Ideologia, è una ideologia, filosofia, è un grande concetto. Ho capito, però... Niente come Parenzo, perché Parenzo nella sua vita, che fa? Posso sparare minchiate alla trasmissione vostra. Il borghese, il borghese, il borghese. Mi sembra, lui, se tu mi avessi detto, chiamiamo uno, io avrei detto, beh, è una parodia. Cioè, come quando io l'ho detto ieri sera, io l'ho detto ieri sera. A me sembra veramente, sembrava un'imitazione, una parodia. Una parodia, bellissimo, la borghesia da distruggere, bellissimo. E invece è drammaticamente vero. Cioè, il fatto è che questo coglione ne pensa davvero queste cose. Dunque, tu godi per l'apocalisse, stai godendo per l'apocalisse, questo è il punto. Godo per l'apocalisse, non per i morti. Eh beh, è uguale però, l'apocalisse porta dietro i morti però. Se godi per l'apocalisse, devi godere pure per i morti, perché l'apocalisse porta... Ma c'è una cosa, cosa ti dico, ti do una notizia. La morte esiste. Sì, ma lo so, ma che c'entra che la morte... Sì, ma certo che esiste, ma magari uno... Ma comunque è bellissimo, è molto teatrale. Guarda che se ci lavori un po' puoi fare molto bene. Posso darti un suggerimento? Tu sei molto teatrale, perché quando adesso hai detto, ad esempio, la morte arriva. Esiste. Così è molto bello. La morte esiste. La morte esiste. È bellissimo. Però fermati lì e poi saluta. Fai finta che sia caduto il collegamento, perché era bellissimo il finale così. Ecco, così sei una macchietta stronza e perfetta. La zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia. Donald Trump. Ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego. Disgraziato, Diego. Tanto ciao. Tu sei il re della radio. Se tu fai via di questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappi, di fighe. Cruciani, tangenziale di Foggia, sono con il camion. Sì. Mignotta in servizio e la gente ci va. Non se ne fotte un cazzo del decreto. Ciao Crucià! I negozi di piccoli animali aperti servono perché se io ho bisogno di un gerbillo per giochi sessuali anali, io devo essere libero di comprarmi un gerbillo. Il gerbillo. Allora ragazzi, il presidente americano Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. signor appunto. Trump, che no, qua, ma forse esagera, è solo un'influenza. Fino a qualche giorno fa, fino ma a non, qualche... non si è consultato con Gottardo? Come mai? Fino a qualche Trump giorno non fa, si è consultato io non con ho mai Gottardo. Sostenuto che è una sorta di influenza. Ma non si è consultato con Trump? Non ho mai sostenuto, vedi, no? Vedi, una, hai scritto il libro influenza. I falsari e sei non un falsario. Si è, consult... è incredibile, non si è questa cosa. Intanto, falsario con ha preso me. Delle misure eccessive. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, dice che avremo un aumento di casi al centro-sud per dei comportamenti errati. Abbiamo visto folle al mare o a sciare o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. Però bisogna dire una cosa, che la colpa non è di quelli che sono andati a fare weekend al mare o in montagna o i mega aperitivi, i navigli, eccetera. È colpa della comunicazione che c'è stata. Cioè io non me la posso prendere, possiamo tutti dire sono degli non idioti, solo, sono non degli solo. Idioti, sono degli imbecilli, e che, ma non solo no, della irresponsabili. Non solo. No, solo della comunicazione, solo. Ma tu l'avresti fatto, no, ma cioè che molti non l'hanno fatto. L'idiozia quindi... fa parte del mondo, ragazzi, se tu non dici a queste persone che non dovevano andare sui navigli e mettevi i militari con le baionette sui navigli, ma questi devi non c'è... i militari? Perché questa è così una che funziona, non no, i militari. In certi casi basta devi mettere mettere i militari. La sanzione. Ma non è che se tu dici non passate col rosso devi mettere il militare perché venga rispettato. In alcuni se glielo casi spieghi sì. Che se passi no, col rosso non muori, basta, non basta. Alla, se ti non devi basta. Mettere il casco, oltre no, ai militari, devi spiegare che infatti, se non ti metti il casco muori. Hai, la cintura no, di bastava, sicurezza uguale. Non bastava. Non fumare nei locali no, uguale. E infatti, cioè, quello che ti, capito, ma no, David, quello ma che ti sto provando a dire no, la comunicazione è stata cioè, sbagliata. Quando ci sono delle regole, vabbè, non c'è niente da delle non regole, vuoi, ma scusami, non vuoi capire, se, non c'è niente scusami, da fare. Se tu ti metti, se non ti metti la cintura di sicurezza, senti, fai un danno a te stesso e anche senti, agli altri. Sì, ma c'è una sanzione. No? Giusto? Fin quando non c'era una certo, sanzione, non c'era una sanzione. Dico che ci deve essere potevi la sanzione. Andare sui navigli come infatti, ti pareva. Infatti chiaro nessuno no? A Napoli va in due sul motorino, no, perché c'è la sanzione, Davide, certo no? Che ci chiaramente, allora fermi tutti, certo che ci vanno. Fermi tutti. Abbiamo con noi un amico, lo abbraccio fortissimo, Massimo Boldi, eccoci qui. Ciao ragazzi, ciao grande Cipollino, come andiamo? Ma guarda, dopo aver sentito le ultime notizie non è che sia proprio felice. Beh no, quello non possiamo essere, però sai, siamo qui alla radio, che dobbiamo fare? Non è che possiamo metterci a piangere, altrimenti... No, ma non si tratta di non metterci a piangere. Massimo, non uscire tu, stai a casa tranquillo, stai lì a casa, non uscire, perché hai una certa età. Bravo. Sì, vabbè, ma va a cagare. No, ma non lo dico. No, ma lo dico perché ti voglio bene. Perché ti sì, voglio bene, capito, lo dico, scusa. A certa età. Cioè, età. Non è che siamo tutti la stessa certo. Età. E certo, quanti ne hai? Ricordiamo quanti ne hai, Massimo, scusa. Io ho 74 anni. Dunque, diciamo che teoricamente... Te ne dimostri sì, molto sì. Meno, si sa naturalmente ma, che sei... Almeno 55, 60. Senti una cosa, ma per cui hai un po' di paura è un o, mio non o non te ne frega un cazzo? È un mio spiegami. Coetaneo. Io sono, se devo essere sincero, sono terrorizzato. Terrorizzato, anche, perché, terrorizzato. Sei, anche perché sei in Lombardia, insomma, vivi a Milano. Anche perché sono in Lombardia, sto nella mia città. Ed è qui che è partito un po' tutto la baradana. È qui che c'è il picco, diciamo. Senti, ma tu come perché prima, quando ci siamo sentiti nel pomeriggio, no, il primo nel pomeriggio ci siamo sentiti, in realtà è andato a fare una passeggiata. Chi hai incontrato? No, devo essere sincero, sono andato proprio per essere in argomento a trovare la mia povera moglie al cimitero. Ah, a vedere. A vedere caspita. La cappella, sono andato praticamente a fare un sopralluogo. Sono andato. No. Ci sei andato a controllare un po' se a c'è posto. Se poi c'è sono posto. Venuto a casa, poi sono venuto a casa e ho detto alle figlie: ma scusate, sono quasi tutti i posti occupati, io dove vado? No, per dire. E le mie figlie, uno si è incazzato come una bestia, ma tu sei solo. C'è tempo, c'è comunque, tempo ragazzi, ancora, se vedi, c'è nonostante tempo, questa dai. Situazione, eccetera, che comunque a 74 anni si potrebbe anche minimamente preoccupare, trova il modo per tirare fuori questa perla. Sono andato al cimitero per dare una controllatina, per fare un sopralluogo. Senti, ma sì, tu quando ti avvicini alle persone, quando le vedi da lontano, qual è il tuo atteggiamento, Massimo? Beh, devo dire la verità, da ieri sospettoso, come se fosse un vigliacco che cerca di uccidermi. Cioè tu dici, vedi... Cioè, qua... Il sospetto vero, di conseguenza tu appena vedi una persona, se la vedi almeno per me, se la vedi un elegante, vestito sì. bene in un certo sì. modo, puoi fare 20 centimetri in più. Se no, se vedi uno che è un po' dismesso, oppure con la barba lunga, e ti tiri assolutamente indietro. Cioè, tutti, ah, e il gesto è... Ah, cioè, quando vedi uno della tua età... Tutta l'ho lanciato via e ti giri e te ne vai. Quando vedi uno della tua età, col cazzo che ti avvicini, insomma, non saluti... No, assolutamente, anche perché quelli della mia età sono concetti peggio. Ci tieni sempre a sottolineare questa cosa, caro Cipollino, ci tieni sempre a sottolineare. Senti, adesso a parte tutto, io faccio ridere i bambini, ho fatto Cipollino per una generazione, forse due, forse tre, forse quattro. Ma certo. I bambini in questi giorni, che chiaramente questi maledetti telefonini che li spaccherei tutti quanti, questi sono stati la rovina dell'inizio secolo, Dio. Questi telefonini comunque mi scrivono, vivono e mandano tutti i messaggini di tutti i film che io ho fatto, quello fa ridere, quell'altro fa ridere, sono anche un po' volgari, eccetera, così. Però è un aiuto che... Vabbè, certo, soprattutto in questi giorni uno è rinchiuso dentro. Senti, ma tu, non ho capito, sei a casa praticamente con tuo figlio e... No, io sono a casa con mia figlia Marta. Con tua figlia? E con una governante. Ma la governante, stupendo, la governante. Di colore magari, no? No, assolutamente no. Ungherese. Vabbè, la governante che è rimasta dentro molto casa. Bene. Senti, ma non eri fidanzato con una ragazza molto più giovane di te, come al solito tuo? Perché... No, sono fidanzato e sono disperato perché siamo lontani, lei è di Lucca. Appunto, quando l'hai vista l'ultima volta? L'ho vista sabato scorso, domenica, poi sono partito e gli ho detto, guarda che credo che non ci vedremo, io ho detto non ci vedremo più, e lei mi ha detto, ma sei impazzito, dico, ma guarda, invece... con l'aria che tira, io infatti oggi ho fatto il sopralluogo. No, senti, ma che sopralluogo? Scusami Massimo, ma quanti anni ha la fanciulla? Quanti anni ha la fanciulla però? Quanti anni ha la puella? 41 anni. Mamma mia, che numero uno, 41 anni. È più giovane di me, addirittura più giovane di me. Pensate. Senti Massimo, ma non ho capito, allora come stai obbiando? Si chiama Irene Fornaciari. Sì, lo so, Irene Fornaciari, come no, assolutamente. Ma non volevo fare il nome perché chi se ne frega. Volevo capire, ma tu come fai a fare sesso con lei adesso? Io? Adesso non posso. Come fai? Non ti sei applicato al sexting oppure alla, che ne so, internet, sesso? No, ma c'è l'iPad, figurati, un'invenzione fantastica. Ecco, con l'iPad vi vedete, magari fra qualche giorno potete anche cominciare a immaginare di fare sesso via internet. Ma credo che fra qualche giorno no, però fra forse... una quindicina di giorni. Tra una quindicina di giorni potrei. Ma non gli interessa più a Massimo, ma figurati. Quartina. Che cos'è la quartina, scusa? E la quartina sono i 15 giorni, no? 15, ho capito. 30. Vabbè, ma nel senso che. Ma non è fissato, Massimo, non gli interessa più. Ma che non gli interessa più? Perché devi dire che non gli interessa? Ma perché devi dire cosa che non gli dice che non... Detto che no, no, no, dico, scusa. Vi tenete per mano, andate a vedere. Avete un rapporto più intellettuale, no, se non ho capito male. Cioè, non ti interessa più il sesso a te, giustamente. Se mi manca la... No, scusa. Se mi manca l'attrazione fisica, allora è meglio avere un altro problema. Io, siccome sono sano... Meglio crepare, dici? Meglio morire a quel punto? No, ma sì, meglio morire, sicuramente. Cioè, se non hai più... Cioè, se non riesci più a trombare, diciamolo in senso molto crudo. Se non, una volta no, uno... No, non si tratta... No, ma guarda che ormai il trombare non è essenziale. Sì, vero, io vero. Trovo che sia un po' superato. Il trombare è una cosa volgare. E che cosa, cos'è che va di moda, diciamo, per te? Cioè, che cosa che ti piace di più? Chiacchierano, dai, si tengono per mano. Va di moda praticamente. No, sì, ovviamente tengono per mano, tengono per l'orecchio, anche magari. No, ma va di moda ed è anche molto più stimolante il sex appeal. Cioè tutto quello che non è... Cioè sfiorarsi. Ma sì, ma poi ci vuole la testa. Vedi, appunto, tenersi per mano. Sì, però ho capito, poi a un certo punto la penetrazione ci vuole, scusami se sono così. Ma figurati. La penetrazione... No, io credo che non sia necessario. Cioè, non sia necessaria la penetrazione. E come fa sta ragazza di 41 anni? Cioè, a 41 anni uno a un certo punto vuole anche, no? Cioè, vuole anche concludere. Però, per carità, cioè, sarai bravo, sarai bravo in altre cose, Massimo. Sarai bravo in altre cose. Certo, sono bravo, bravo, vedi che hai capito. Ho capito. Siamo una famosa cosa che piaceva tanto a Lando Buzzanca, che è il cunnilingus. Era fissato con il cunnilingus. Questa cosa. Cunnilingus, sì, poi. Manilingus, eccetera, eccetera. Ma comunque, ti racconterà le barzellette al massimo. Gli racconta le barzellette, lei è felice, stanno bene insieme. Dai, questo è un rapporto normale a quell'età lì. Comunque, ma io bene, non credo, non credo proprio. Diglielo tu, Massimo. Ma ti sta. Ma scusami una cosa, ma scusate, avete letto che il cavalier Berlusconi, esatto, si è rifidanzato e come no, certo, con una signorina di 30 anni. Allora, cosa vuol dire? Che tu non puoi farlo, è esattamente lo stesso rapporto, cioè 75, anzi no, beh, lui se l'è preso un po' più larga in realtà. No, lui, no, lui ha 53 anni, io 32, 33. Comunque la cosa fondamentale è questa, mi raccomando, usa tutte le tecnologie possibili, perché magari la reclusione sarà lunga e fra poco tu e Irene potete ricominciare con le tecnologie a fare un po' di cosette via, no? via Skype, sì, o via altre cose. Va bene, ti abbraccio. Il sopralluogo com'è andato? Eri triste quando hai fatto il sopralluogo? No, sono uscito sorridente. C'era il posto eventualmente, no? Perché era vivo. Sorridente perché è vivo. No, certo. Ma soprattutto perché quando esco dalla cappella dove sta la mia povera Marisa, io ho un carion. Sì. Con della neve dentro una pallina, con della neve che cade, sì. Faccio andare il carion e esco sul suono di questo carion, chiudo la porta e me ne vado. Straordinario. Sì. Senti, un'ultima cosa, Sgarbi è uno di quelli che è un tuo grande amico, è uno di quelli che dice, è un po' negazionista sul coronavirus. No, lui ha una sua teoria che secondo me non è neanche poi assurda così. Ma tu sei d'accordo con lui o no? Mi sembra di no, perché dice che sei terrorizzato. No, io sono terrorizzato, però lui cerca di, perché siamo diventati, ormai lui mi chiama papà. E come mai? Hai capito? Perché? Mi chiama papà perché io avrei già dovuto iniziare il film sulla sua famiglia. Ah, già, tu sarai il padre. Lei sarà... mi parla ancora di Pupi Avati, sì, e sì, che è proprio la storia della famiglia Sgarbi, genitori, certo. Sì. della famiglia Sgarbi. E tu sarai il padre, il padre di Vittorio. E io sarò il papà. Sì. Vabbè, ti abbraccio. Ciao Massimo. Ciao, abbracci. Ciao ragazzi. Ciao, avanti tutta. Ciao, italiani. Ciao. Italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cos'è che dice? Dobbiamo stare a casa?